GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. In pieno svolgimento la dunata degli alpini a Udine, dove questa mattina c'è stato il solenne alzabandiera, e mentre la città si sta riempiendo di penne nere proseguono le cerimonie celebrative in attesa della grande sfilata di domenica. Resta però l'incognita del meteo. Tra le misure messe a punto ci sono le disposizioni relative al traffico, con l'istituzione di una zona rossa nel centro cittadino, e quelle sulla chiusura delle scuole per la giornata di domani. Electrolux ha ricevuto un'offerta di acquisto da un gruppo cinese. Dopo l'appello dei giorni scorsi al governo dei lavoratori dello stabilimento di Porcia è arrivata la risposta del ministro delle imprese Urso, che dice di seguire con attenzione la vicenda. Prima regionale per il Circolo del Dono, iniziativa teatrale organizzata dall'Associazione Donazione Organi AIDO, che propone scene animate, quiz e dialoghi per sottolineare l'importanza sociale della donazione di organi. Anche quest'anno le spiagge di Lignano e Grado si sono aggiudicate le bandiere blu assegnate dalla FEI Italia, Federazione per l'Educazione Ambientale, confermando per il Friuli Venezia Giulia il risultato dell'anno scorso. Jonathan Milan è il corridore italiano che ha ottenuto i migliori risultati in queste prime tappe del Giro d'Italia. Secondo l'ex commissario tecnico della nazionale e commentatore Rai Davide Cassani, potrebbe essere lui il leader dell'Italia ai prossimi campionati mondiali su strada a Glasgow, ma il calendario gli impone una scelta. Le 12:31 minuti e 40 secondi in questo istante, questi titoli. Ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e Daniele Lettig a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 12 maggio. In apertura la dunata degli alpini, che è in pieno svolgimento a Udine, dove questa mattina c'è stato il solenne alzabandiera, e mentre la città si sta riempiendo di ora in ora di penne nere proseguono le cerimonie celebrative dell'evento in attesa del clou, la grande sfilata di domenica prossima. Con la toccante cerimonia dell'alzabandiera in Piazza Libertà a Udine, trasformata in una piazza d'armi, e la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti, ha preso ufficialmente il via la 94esima adunata degli alpini. Sebastiano Favero, presidente Associazione Nazionale Alpini. Il Friuli, fin dall'inizio, fin dalla costituzione del Corpo degli Alpini 151 anni fa, e poi anche con la costituzione dell'Associazione Nazionale Alpini dopo la Prima Guerra Mondiale, noi eravamo di casa qui. Voglio ricordare che le prime edizioni del nostro giornale L'Alpino venivano fatte proprio qui a Udine, per cui Udine è città alpina per vocazione, ma è il Friuli, e dopo, soprattutto dopo il terremoto del 76, il legame tra la gente del Friuli e gli alpini, sia in armi che in congedo, è diventato fortissimo. E io già ieri, nel passaggio che ho fatto ad Aquileia, a Re di Puglia e a Gemona, questo legame l'ho visto profondo e continuerà così. Altre due corone sono state deposte al Tempio Ossario e al cippo ai caduti della Brigata Iulia al Parco Moretti. Ieri cerimonia al Sacrario di Re di Puglia e al Cimitero degli Eroi di Aquileia, e in serata toccante celebrazione a Gemona con un omaggio da parte del sindaco di Bergamo, creando un legame tra gli alpini caduti durante il terremoto e le vittime del Covid. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. E tra le misure messe a punto dal comune di Udine per il regolare svolgimento della dunata ci sono le disposizioni relative al traffico, con l'istituzione di una zona rossa nel centro cittadino, e quelle sulla chiusura delle scuole per la giornata di domani. Da oggi Udine fa i conti con le limitazioni alla circolazione e alla sosta, zona rossa e zona verde. Nella prima, divieto assoluto di entrata, strade completamente pedonalizzate, capannelli di alpini di qua e di là. Nell'area verde, tolleranza fino alle 16 di oggi, anche perché alcune scuole osservano il tempo pieno. Garantita transitabilità per il carico e scarico, per raggiungere un parcheggio privato, per il personale medico e per gli operatori logistici della dunata. Ma il personale varchi delle zone verdi, volontari della sicurezza alpina, affiancati da agenti della municipale o dalla protezione civile, a valutare la situazione caso per caso. Come spiega il comandante della polizia municipale Eros Del Longo, in primis viene fatta una valutazione di sicurezza. Quando possibile, in zona verde, se la strada è relativamente sgombra, si cerca di ridurre al massimo i disagi. Tra gli automobilisti c'è chi fa spallucce, chi accetta le limitazioni imposte e chi invece si lamenta per il disagio o per la mancanza di adeguata comunicazione. Non dovrebbero entrare mezzi come i cosiddetti trabiccoli con rimorchio, pieni di alpini che cantano allegri in piedi, ma li abbiamo visti transitare comunque anche dai varchi della zona verde. Domani a Udine scuole chiuse. Alcuni commercianti si dicono dispiaciuti per il tempo che finora ha penalizzato le presenze in città, ma dal pomeriggio, con gli arrivi di chi farà festa in centro alla sera, le cose potrebbero cambiare. Chi arriverà in stazione troverà l'ascensore funzionante dopo anni di lavori al binario 1 e ai binari 5-6. Il prossimo passo, ma ci vorrà tempo, indica la Rete Ferroviaria Italiana, sarà rendere completamente accessibili anche le altre aree di arrivi e partenze. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ma come saranno le condizioni meteo del fine settimana e in particolare nella giornata di domenica, il giorno della sfilata? Lo abbiamo chiesto al previsore dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, Sergio Nordio. È ancora presente una depressione sul Mediterraneo occidentale che però influenza in parte il tempo anche sulla nostra regione. Abbiamo a tratti degli impulsi di umidità che arrivano, pertanto avremo nella giornata di sabato una nuvolosità variabile, probabilmente un po' più di sole al pomeriggio, però saranno possibili ancora delle piogge sparse, forse anche qualche rovescio, qualche temporale. È difficile inquadrare esattamente il momento della giornata, diciamo che c'è un po' di instabilità per quanto riguarda le temperature, qualche grado in più rispetto a oggi. Domenica partiremo con tempo discreto, probabilmente al mattino, anche su Udine, dovremmo avere una certa variabilità, però con bassa probabilità di piogge. Questa mattinata di domenica tende a essere un po' più probabile la pioggia invece nel pomeriggio a partire dalle zone orientali, poi in estensione anche sulla pianura. È una previsione ancora incerta quella di domenica, quindi occorre seguire un po' gli aggiornamenti e vedere poi l'evoluzione di questa depressione. Vediamo allora i dati del momento per quanto riguarda il meteo. Il cielo è da nuvoloso coperto sulla regione. Queste le temperature registrate poco fa. A Trieste e Gorizia ci sono 14 gradi e 5 decimi, a Udine e Pordenone 14 gradi, a Tolmezzo 12, a Tarvisio 10, a Forni di Sopra e Sappada 7 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 5 gradi e 5 decimi. Sul Monte Zoncolan 2 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 2 gradi, sulla costa Lignano 14 gradi e 5 decimi, a Grado 14 gradi. Occupiamoci ora di Electrolux, che ha ricevuto un'offerta di acquisto da un gruppo cinese. Dopo l'appello dei giorni scorsi al governo dei lavoratori dello stabilimento di Porcia, oggi è arrivata la risposta del ministro delle imprese Urso, che dice di seguire con attenzione la vicenda, confermando la fiducia sul futuro degli stabilimenti produttivi in Italia. Il governo segue con attenzione le vicende dell'Electrolux ed è in contatto costante con la proprietà. Siamo assolutamente fiduciosi sul futuro degli stabilimenti produttivi in Italia. Sono le dichiarazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che mirano a stemperare le tensioni crescenti sul futuro della multinazionale svedese, ancora avvolto nell'incertezza. Alle voci uscite negli scorsi giorni sull'offerta da parte del colosso cinese di Midea, che hanno fatto balzare in alto anche il titolo in borsa, l'Electrolux ha risposto con il silenzio. Più volte abbiamo chiesto una smentita o una conferma, ma l'azienda non intende sbilanciarsi, spiega Gianni Piccinin della FIM CISL. Una posizione che, continua, non aiuta l'atmosfera in fabbrica già pesante a causa della diminuzione degli ordinativi e delle ore lavorate. Il mercato sta calando anche in un periodo in cui ci si attendeva che i numeri aumentassero, continua. L'incertezza è accresciuta anche dal fatto che Electrolux, nonostante le voci di cessione, ha messo in campo investimenti consistenti, come i 110 milioni a Susegana e gli altri 100 a Solaro, e anche Porcia è interessata da progetti di trasformazione. In tutto questo, le rassicurazioni del Ministero sono benvenute, ma non sufficienti. L'esecutivo potrebbe giocare il tema della tutela dell'interesse nazionale, spiega Maurizio Marconi con della FIOM, ma è dal 2022 che i sindacati chiedono un tavolo con il governo per fare chiarezza sul tema del comparto, ma finora senza risposta. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: il personale medico infermieristico della Sores è intervenuto questa mattina per 3 incidenti stradali. Lungo l'autostrada A34, nel tratto che ricade nel comune di Fara di Sonso, c'è stato uno scontro tra un furgone e un camion. Una persona è rimasta ferita in maniera lieve ed è stata trasportata all'ospedale di Gorizia. E a Fiume Veneto, lungo la ex provinciale 21, si è verificata una fuoriuscita autonoma di strada. Una persona è stata soccorsa dall'equipaggio di un'ambulanza e trasportata con lesioni non gravi all'ospedale di San Vito al Tagliamento. Infine, un uomo è stato soccorso dai sanitari dopo essere stato investito da un camion lungo la strada della Rosandra a San Dorligo della Valle. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale triestino di Cattinara per la cura di un trauma cranico. Non è passato inosservato alla pattuglia della Polizia Stradale di Palmanova, in servizio al casello autostradale dell'A4 di Villesse, un autocarro bianco in evidente sovraccarico. Durante il controllo del mezzo, dietro alcuni materassi, sono state rinvenute 3 piccole betoniere mobili da cantiere edile, risultate poi rubate in un cantiere in provincia di Bergamo. La refurtiva, del valore di 7.000 euro, è stata sequestrata e riconsegnata ai legittimi proprietari. L'autista del mezzo, un cittadino straniero, è stato denunciato in stato di libertà per reato di recettazione. I carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Udine hanno restituito una preziosa cinquecentina alla provincia toscana dei Frati Cappuccini di Firenze, intitolata Pietro da Bergamo, Tabula Aurea, che contiene la famosa opera omnia di San Tommaso d'Aquino, edita a Roma nel 1570. Si tratta di un prezioso volume che dalle indagini condotte tra il 2020 e il 2022 era scomparso dalla Biblioteca dei Frati Francescani di Siena in circostanze legate a lavori di ristrutturazione del convento, con successivo trasferimento di molti di quei libri antichi presso la sede di Firenze dello stesso ordine religioso. Dopo opportune ricerche si è scoperto che un account attestato in Italia aveva posto in vendita all'asta il volume in questione per 1.000 euro. Con la collaborazione del sito di vendita online è stato possibile risalire a un sessantenne della provincia di Milano, che tuttavia lo aveva a sua volta venduto a un acquirente residente nelle Marche, ed è stato lì che si è potuto eseguire un nuovo decreto di sequestro sul prezioso volume. Nuovi modelli di abitare per una vita indipendente delle persone con disabilità, oltre che di metodologie, servizi e organizzazione dell'abitare. Se ne parla a Pordenone, nella sede di Confindustria Alto Adriatico, nel convegno che ha per titolo Ogni casa è una storia. L'appartamento Casa del Sole in centro a Pordenone è una delle 20 abitazioni di vita indipendente per le persone con disabilità, un sistema abitativo alternativo a quello in comunità o in altre strutture che in questo territorio conta su una delle reti più estese e all'avanguardia in Italia, grazie all'esperienza ventennale di 2 realtà, l'Associazione La Luna di Casarsa della Delizia e Fondazione Down Friuli Venezia Giulia. Di risultati e prospettive si è parlato in un convegno organizzato in collaborazione con l'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Erika Biasutti è la referente del nuovo sistema Abitare. Ad oggi abbiamo circa una ventina di case in tutto il territorio provinciale e una quarantina di persone che vi abitano. Ecco, è arrivato per noi il momento di costruire un'alleanza e una sinergia più solida che abbiamo denominato sistema Abitare. È un sistema per l'autonomia abitativa delle persone con disabilità. È fatto ed è costruito sull'infrastruttura necessaria dal punto di vista organizzativo e logistico e amministrativo per poter gestire i nuclei abitativi sul territorio e garantirne l'inclusione e l'integrazione, e poi per la gestione della progettazione educativa, che è fondamentale perché i processi poi di autonomia vadano di fatto a buon fine. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. È uno dei più autorevoli studiosi di intelligenza artificiale, insegna la materia all'Università di Bath nel Regno Unito. Parliamo del goriziano Nello Cristianini, autore del libro La scorciatoia, come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano. È stato ospite stamattina di Buongiorno Regione, sentiamo un estratto dell'intervista. L'intelligenza artificiale ce l'abbiamo in tasca, ci dice Nello Cristianini, uno dei più autorevoli studiosi della materia, che si basa su macchine che imparano. Macchine che, per aiutarci a cercare e scegliere tra miliardi di video, oggetti, articoli, prevedono le nostre scelte dai nostri comportamenti, dalle nostre preferenze, e per questo ci osservano. I rischi di dipendenza comportamentale, sorveglianza, di polarizzazione sono concreti, sostiene. Si discute molto su quali valori vogliamo mettere dentro GPT, nel senso che se GPT deve parlare di questioni sociali o decidere delle cose, va capito cosa vogliamo che sia il ruolo della donna, il ruolo delle minoranze e avanti così. Per esempio, quali valori devono entrare lì dentro? E l'ingegnere medio chiede onestamente: ditemi voi quali valori vogliamo misurare e introdurre nella macchina. Ed è una follia, e ogni umanista ci insegnerebbe che in tempi diversi, in generazioni diverse, anche nello stesso posto, i valori cambiano. Cambiando poi paese, cambiano ancora di più. Non ha senso parlare di un insieme di valori corretto. Questa macchina porrà dei problemi culturali, perché dovremo decidere quali tipo di comportamenti ci aspettiamo da questa, ma ognuno avrà idee diverse che andranno risolte nei parlamenti e non nei laboratori scientifici. Nada Choc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Anche quest'anno le spiagge di Lignano e Grado si sono aggiudicate le bandiere blu assegnate dalla FE Italia, Federazione per l'Educazione Ambientale, confermando per il Friuli Venezia Giulia il risultato dell'anno scorso. Sono state in tutto 226 le località rivierasche premiate per la qualità dei servizi offerti. In testa alla classifica nazionale ci sono la Liguria con 34 località, seguita dalla Puglia con 22 riconoscimenti. Prima regionale oggi per il Circolo del Dono, l'iniziativa teatrale organizzata dall'Associazione Donazione Organi AIDO, che propone scene animate e quiz dialoghi per sottolineare l'importanza sociale della donazione degli organi. Ha unito il tema del dono con quello dei talenti individuali che ciascuno di noi possiede. La conferenza spettacolo allestita da AIDO, l'Associazione Donazione Organi, che è stata rivolta ai più giovani per farli riflettere sulla possibilità di dare agli altri ciò che si possiede. Intitolata Il Circolo del Dono e rappresentata questa mattina a Trieste al Teatro dei Salesiani di Via dell'Istria, l'iniziativa era intesa a far comprendere il valore individuale, quello del dono in senso allargato, per giungere all'importanza sociale della scelta della donazione di organi. Il tutto è stato proposto avvalendosi di scene animate, quiz e dialoghi per coinvolgere quanto più possibile una platea di importanza primaria per l'associazione. Ne abbiamo parlato con Mari Laura Martin, presidente regionale di AIDO. E questa è la prima rappresentazione, in effetti, è proprio la prima di quest'opera teatrale che si è potuta fare grazie a un contributo che la Regione ha finanziato, che ci ha permesso di cominciare un'attività che avevamo in mente già da anni, di essere innovativa rispetto alla formazione dei giovani sulla donazione di organi, che è un argomento piuttosto complesso e delicato che si pensa che non possa essere portato nei giovani perché si parla di morte. Invece no, si parla di talenti in questo progetto qua, si parla di vita, si parla di possibilità di dare qualcosa, di formarsi. Diciamo, questo è uno spettacolo che vuole essere anche formativo per i giovani, quindi di entrare in quello che è l'attività scolastica che viene fatta. Trieste, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport e ciclismo. Il friulano Jonathan Milan è il corridore italiano che ha ottenuto i migliori risultati in queste prime tappe del Giro d'Italia. Un primo e due secondi posti. Secondo Davide Cassani, ex commissario tecnico della Nazionale Azzurra e commentatore Rai, Milan potrebbe essere il leader dell'Italia ai prossimi campionati mondiali su strada a Glasgow, ma il calendario gli impone una scelta. Il problema è questo, che quest'anno i mondiali sono tutti insieme, strada e pista. Il sabato c'è il quartetto dell'inseguimento, la domenica la prova in linea di 270 km. Uno come Milan, su un percorso del genere, poteva essere adatto per fare qualcosa di buono, e che dovrà scegliere o farà la pista o farà la strada, ed è un vero peccato. Secondo lei, ovviamente, Milan potrebbe puntare sulla pista perché è una medaglia più sicura? Lui è una pedina fissa del quartetto, campione olimpico, campione del mondo. Ci sono tra l'altro le qualificazioni per le prossime Olimpiadi e penso che Marco Villa abbia assolutamente necessità di un corridore come Jonathan Milan. Si è parlato molto del rapporto che usa Milan in volata e di una volata un po' scomposta. Secondo lei dovrebbe usare un rapporto più duro, rischiare di più? Ieri era un po' troppo agile, secondo me con un dente più duro poteva anche vincere. E per quanto riguarda la posizione, sì, è migliorabile perché perde secondo me un po' di energie e anche nell'aerodinamica potrebbe essere molto molto più redditizia la sua posizione. Quindi proprio per questo motivo ha ampi margini di miglioramento. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono 3.000 i biglietti messi a disposizione da Promoturismo FVG per salire in telecabina al Monte Lussari per assistere alla tappa del Giro d'Italia di sabato 27 maggio. I ticket avranno un costo di 22 euro e saranno acquistabili in un click day a partire dalle ore 9.30 di martedì 16 maggio, fino a esaurimento posti, sullo shop online di Promoturismo FVG all'indirizzo fvg.access.shop. I biglietti daranno diritto alla salita a Lussari negli orari prestabiliti, visualizzabili al momento dell'acquisto e alla discesa tutto il giorno. Sono 4 le fasce orarie prestabilite per la salita, ognuna con 750 posti disponibili, dalle 8.30 alle 9.30, dalle 9.30 alle 10.30, dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 11.30 alle 12.30. Insieme al biglietto sarà possibile abbinare anche l'acquisto del parcheggio dedicato a un costo aggiuntivo di 3 euro. Anche l'afflusso delle auto e parcheggi sarà suddiviso in fasce orarie. L'accesso all'impianto di risalita sarà pertanto riservato ai possessori del ticket, ma il pubblico potrà, volendo raggiungere la cima, anche autonomamente a piedi. In relazione alle notizie pubblicate dalla stampa e dai media circa le sanzioni subite dalla società di pallacanestro Vis Spilimbergo per gli episodi occorsi nella gara contro la squadra 3S Cordenons dello scorso 3 maggio, la Federazione Italiana Pallacanestro del Friuli Venezia Giulia ha chiarito che l'ammenda comminata dal giudice sportivo per tentata invasione di campo e ingiurie reiterate del pubblico nei confronti degli arbitri è stata erogata per le intemperanze collettive del pubblico, nonché per il comportamento di un singolo tifoso tenuto al termine della gara e non per l'intervento di un medico in ausilio a un giocatore infortunato. Del resto, continua la nota, sarebbe clamoroso e preoccupante se un medico nel corso del suo intervento avesse offeso reiteratamente la coppia arbitrale. Sulla stessa linea arriva il commento della sezione regionale del Comitato Italiano Arbitri, che rileva come troppe persone con estrema superficialità abbiano fatto appello al buonsenso, evidentemente non essendo presenti alla gara, ritenendo i due arbitri dei totali incapaci e talmente ottusi da non riuscire a distinguere l'intervento di un sanitario da un'invasione di campo. Se si fossero adottate tutte le misure precauzionali del caso, tra le quali anche l'utilizzo del tunnel estensibile, prosegue la nota del CIA, molto probabilmente si sarebbero potuti evitare certi episodi che hanno portato poi alla sanzione più pesante. Oggi alle 18.30 le ragazze della squadra femminile dell'Interclub Muggia Basket, neopromosse dalla Serie C alla Serie B, saranno ricevute dal sindaco della cittadina Polidori per festeggiare l'importante risultato raggiunto. Tales of Women at Sea è il titolo del progetto audiovisivo sulle donne che attraversano il Mediterraneo, è realizzato da Medici Senza Frontiere attraverso gli scatti delle fotografe Maka Eslami e Niancio Nvari. La mostra sarà presentata in un incontro pubblico nell'ambito del Festival Sabir questa sera alle 18.30 alla stazione Rogers di Trieste, dove sarà visitabile fino al 18 maggio. Giorgia Girometti, responsabile della comunicazione per l'attività di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, ci ha spiegato perché è importante questo racconto. È un progetto fotografico e audiovisivo che abbiamo iniziato nell'autunno del 2022 con l'obiettivo di documentare e condividere quelle che sono le storie delle donne che decidono di attraversare il Mediterraneo per iniziare una nuova vita. Di questa grande popolazione le donne rappresentano solo il 5% e quindi molto spesso le loro storie rimangono più nell'ombra, ed è proprio per questo che abbiamo deciso invece di cercare di dargli luce e visibilità attraverso questo progetto fotografico. E nell'incontro di stasera di che cosa si parlerà? Parteciperemo noi in quanto Medici Senza Frontiere insieme alla giornalista Veronica Fernandez per discutere di questo progetto, presentarlo, anche per insomma spiegare qual è stata la scelta a livello fotografico, quindi con quali fotografi abbiamo deciso di lavorare e di collaborare, ma anche poi per condividere alcune di queste storie e dare anche, direi, un'immagine o comunque qualche elementi più generali di contesto di quello che è di quella che è la situazione attuale nel Mediterraneo centrale. Medici Senza Frontiere è impegnata soprattutto nel Mediterraneo centrale, ma anche qui a Trieste siamo in un territorio che assiste a un continuo arrivo di migranti, soprattutto via terra dalla rotta balcanica. Perché è importante essere qui e aver portato qui questo festival dedicato ai migranti e alle migrazioni che si chiama Sabir? Quest'anno siamo qui dove appunto si parla di un'altra rotta, la rotta balcanica, dalla quale arrivano anche moltissime persone in fuga. Noi in quanto Medici Senza Frontiere lavoriamo a queste frontiere da moltissimi anni, sia nel Mediterraneo centrale ma anche appunto alle frontiere più a nord dell'Italia. Si parlerà della frontiera più a sud, quella del Mediterraneo, che è una frontiera invisibile, nel senso che non è delimitata, c'è un mare, ma ahimè è ancora la frontiera più mortifera, ovvero dove muoiono il più alto numero di persone. E sempre nell'ambito del Festival sulle migrazioni Sabir, in corso a Trieste fino a domani, le giornaliste e scrittrici Jara Khan, Fatima Boutouche, Sabika Shapovia ed Eleonora Camilli si confronteranno sul tema del linguaggio usato per raccontare l'immigrazione. Nell'incontro Le parole fanno il mondo, alle 18.30 al Caffè San Marco. E sempre per il cartellone del Festival, alle 17 al Bar Libreria Knulp verrà presentato il progetto fotografico Forest, persone e paesaggi in transito, con foto realizzate dalla artista Ofer Thompson sulla frontiera montana dell'Italia e lungo le rotte migratorie dell'Europa. È partita oggi da Trieste la nuova avventura dello scrittore e camminatore Bruno Zaro, autore del volume Tracce lungo il sentiero, storia di vita e di cammini. Un cammino che attraversa tutta l'Istria sulle tracce del padre, fuggito a causa delle persecuzioni titine, e che punta a lanciare un messaggio di pace e fratellanza in una terra dove il retaggio della storia del Novecento è ancora forte. Lo abbiamo intervistato. La storia di Bruno Zaro è un lungo cammino di 63 anni, come tante persone che si portano alle spalle una vita, e quindi diventa veramente difficile essere breve. Se uno volesse saperne un po' di più, ma di sapere un po' della mia storia legata anche a storia di altri, dovrebbe leggere il mio ultimo libro. Sono legato a questa terra perché mio papà è nato in un paese dell'Istria. E quindi io, che sono appassionato di cammini, ho deciso di fare un cammino proprio in questa regione, in Istria, partendo da Trieste, che è una città comunque, anche se non nell'Istria, ma di riferimento per questa regione, e facendo 500 chilometri in un mese ritornerò ad Anello, di nuovo a Trieste. Qual è il percorso del cammino e per quali paesi dell'Istria passerà? Non è un cammino già predefinito da qualcuno, è un cammino che mi sono tracciato io a casa, perché volevo passare assolutamente in determinati paesi dove vivono ancora tante comunità italiane che ci sono in questo paese. E se dovessi fare l'elenco, qui andiamo a parlare più di una ventina di paesi, quindi Capodistria, Isola, Buie, tanto per farne qualcuno. È vero che l'idea di questo cammino le è venuta per ritornare un po' nelle terre di cui è originario suo padre? Assolutamente sì, perché mio papà è nato a Isola, io non conosco tutta la regione e in sua memoria voglio ripercorrere non solo il suo paese, ma tutta quanta la regione. E c'è un messaggio particolare che lei vuole portare legato a questo suo percorso, a questa camminata? Sicuramente sì, io mi sento di lanciare, come dire, un ponte sul futuro di questa regione. Mi sento di legare questa cosa qui, questo messaggio proprio di unione di popoli fra chi è anche andato via come profugo dalla sua terra, ma con quelli anche che sono rimasti. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, che è stata redatta e condotta da Daniele Lettig e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Mauro Cumin e di Vascia Chris Mancic. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. Vi ricordiamo il prossimo appuntamento con informazione, il telegiornale delle 14, e poi il prossimo Giornale Radio alle 15. A tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.